Ed eccoci qui per questo sabato 21 giugno 16:31, inizia Radio Africa, trasmissione dedicata alle sonorità del continente africano che vi terrà compagnia fino alle 18. Africa, won't you be free? I know them system is a plot against my people. Paris ya before us. 87.9 e la modulazione di frequenza, e vi ricordo anche il contatto telefonico che è 06 49 17 50. Who can try to be my enemy? My Africa want to be free. Ripetita Juvent, Radio Onda Rossa non fa pubblicità, quindi il conto corrente postale è il 6180 4001, intestato alla cooperativa culturale Laboratorio 2001, Viale Volci 56, Roma. Africa, won't you be free? Mama Africa, Africa, won't you be free? As I know your system is a block against my people. For us, nobody can be against us. If that is for my people, I don't know who can try, who can try to be my enemy. My Africa want to be free. Africa, Africa, Africa want to be free. Hey man, where is it? It's a brand new Wayo. Thank you. are working for it. I know. They don't want to work for it, man. No, they just want to make their bread without sweat. All they do is rip off, though. Every time, you know, they come out with new things, new ways to rip off. And people call that hustle, and some others call it okay. But we don't call those ones anymore. We call it now a brand new Wayo, you know, because every day, every night, they come out with new things to rip off. And that's what we're talking about. So can we all tell them? Si chiama Timaco Maciola Isseli ed è uno dei musicisti che intorno agli anni 70 è stata una celebrità sulla scena nigeriana. Il suo gruppo jazz funk si chiamava Mixed Grill, proprio questo è il titolo del brano che ci stiamo ascoltando, Mixed Grill del 1979. Invece si chiama Jimmy Jacint di Trashville, un quartiere di Abidjan in Costa d'Avorio. Ha suonato insieme a Nyan Cabell e molti altri musicisti della Costa d'Avorio e del Mali dagli anni 70 fino al 1980. È molto apprezzato un suo album che si chiama Goli nel 1979, che ha avuto un grandissimo successo, e di questo album proprio Yashi Minu era la canzone diciamo così faro, e questa è quella che ci stiamo ascoltando. 1979, Jimmy Jacint, Costa d'Avorio. Keje keje keje sa, only music. jam. You can see music. Kije, kije, kije, kije, sa. Money music. Music, music. Money music. Sonorità che evocano la disco music degli anni 70, ma vengono appunto dalla Costa d'Avorio, Jimmy Jacinth. 16:43 all'ascolto di Radio Africa, sintonizzate e sintonizzati sugli 87.9 della modulazione di frequenza di Radio Onda Rossa. E ce ne andiamo in Nigeria, dove incontriamo Johnny Astrup, che è cresciuto in una casa reale in Nigeria. I suoi parenti erano dei nobili e ha cominciato subito a suonare nel gruppo musicale di suo fratello, che si chiamavano gli Sneakers, e poi è diventato vocalist del gruppo Modern Ace di OG Ekemode, Orlando Julius Ekemode, che è uno dei massimi rappresentanti di quello che viene definito l'Afro Soul. Nel 1978 Johnny Astrup se ne va a Londra, dove incide il suo album solitario Wake Up Your Mind. È proprio da questo album che ci ascoltiamo la quinta traccia, Do The Funk Crew. got a new dance for the Disco Brothers. We've got a new dance for the Disco Sisters. We've got a new dance for the music lovers. We call it funk rock. Let's get it on. Listen, one step to the right, one step to the left. Jump front three times, jump back. One step to the right, one step to the left. Jump front three times, jump back. Shake your hips now. Shake your hips now. Shake. Brother, let us do the funk road dance. Lady, let us do the funk road dance. Brother, let us do the funk road dance. Oh, it's the latest dance, and it's gonna make you move. So come on, do it, do it, do the funk road, baby. Do it, into another funk road. Do it, into another funk road. Lui invece viene dal Burkina Faso, Mamolak Bema, in questo Love, Music and Dance, da un album che raccoglie il sound burkinabè dal 74 al 79, anni in cui anche la musica bambara era influenzata dal funk. Come on in my band, yeah. Love, love, love in my Love Music and Dance, Mamolak Bema, Burkina Faso, 16:52 all'ascolto di Radio Africa dai microfoni di Radio Onda Rossa, 87.9 la modulazione di frequenza, 06:49 17:50 il contatto telefonico. Ce ne andiamo in Nigeria dove incontriamo un gruppo che si chiama The Funkees, un gruppo che è nato alla fine degli anni 60, nel 73 se ne sono andati a Londra dove hanno cominciato ad avere una certa influenza sulla scena dell'Africa dell'Ovest e del West Indian, soprattutto appunto a Londra. Erano specializzati, diciamo così, in un funky rock. Loro cantavano in Igbo e anche in inglese e diciamo che sono nati dopo la guerra, durante la guerra del Biafra, e hanno contribuito anche in qualche maniera a dare corpo a una produzione che i giovani gruppi musicali in quel periodo così buio cercavano di esternare, di soprattutto a Lagos in Nigeria, ma anche appunto a Londra. Ebbene, loro, i The Funkees, dal 1977 con questo Dance With Me. We'll be right back. Funkies, Dance With Me, 1977. E allora rimaniamo ancora in Nigeria. Lui si chiama Stephen Olisa Amechi, il suo gruppo di Afro Ritz Rhythm Skies, il brano del 1970, Afro Baby. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Steven Olisa Amechi con la sua Afro Rhythm Skies. Ebbene, loro, lui era una vera e propria star nel firmamento della musica nigeriana dell'epoca. Apparteneva un po' alla old school, perché riusciva a mettere insieme il vecchio stile dell'high life con queste venature appunto funk e anche rock, e ha avuto insomma un discreto successo. Il brano che ci siamo ascoltati era del 1970. Si sono fatte le 17 qui dai microfoni di Radio Onda Rossa, sempre sintonizzate e sintonizzati sugli 87.9 della modulazione di frequenza. Questa è Radio Africa. Un altro gruppo, gli Immortals, ebbene loro, anche loro provengono dalla scena musicale degli anni 70 della Nigeria, una sorta di rock garage molto ruvido. Ebbene, il brano è Hot Tears. Just let me have Allora, loro erano i The Immortals, rimaniamo ancora nell'ambito della musica nigeriana di quel periodo e incontriamo The Mebusas. Mebusas erano un gruppo molto particolare perché mettevano dentro un po' di tutto, dal soul al funk al rock psichedelico e anche alla musica latina. Le loro addentellati con le origini africane e caraibiche, insomma, si fondevano con la tradizione nigeriana. Sono diventati famosi per un brano del 1973 dall'album Blood Brothers, Blood Brothers nel senso del sangue, del 1973. Il brano che ci ascoltiamo è Son of Mr. Bullock. The Mebusas sono Mr. Bulldog. Allora siamo intorno al 1973. In quegli anni, subito, diciamo così, poco prima, Fela era tornato da Los Angeles con i suoi Kula Lobitos, aveva, diciamo così, ampliato la sua prospettiva rispetto anche, insomma, a tutta la riflessione che lui faceva sulla liberazione dell'Africa, anche grazie all'incontro con alcuni rappresentanti del Black Panther lì a Los Angeles. Tornato, ha cambiato il nome del suo gruppo, Kula Lobitos. Le registrazioni di quel periodo intorno al 1969 sono chiamate proprio LA Session, e da lì noi ci ascoltiamo questo Funky Ones, Kula Lobitos di Fela. We'll be right back. Fela Kuti, Kula Lobitos, in questo Funky Horn, 17:14 all'ascolto di Radio Africa, sintonizzate e sintonizzati sugli 87.9 della modulazione di frequenza di Radio Onda Rossa, 06 49 17 50, il nostro contatto telefonico. E allora c'è un gruppo che si chiama The Face, che dà l'idea di qual era, come dire, il ritmo dei primi anni 70 a Lagos in Nigeria. Chitarre elettriche, percussioni Yoruba. Il brano in questione si chiama Tag of War e loro sono i The Face. E allora loro con questo Tug of War erano i The Face, e noi dalla Nigeria facciamo un bel salto, ce ne andiamo in Sudafrica. Il salto è nello spazio, ma non nel tempo, perché siamo sempre nel 1975, questi veramente ruggenti anni 70 dal punto di vista della produzione artistica e musicale, non solamente in Europa ma anche in Africa. Lui si chiamava Philip Malela ed è uno degli esponenti di quella scena musicale che comunque, nonostante l'apartheid, nei fatti stava cambiando, come dire, sotto traccia la scena sociale, musicale e artistica del Sudafrica, dove l'apartheid cominciava la sua crisi profonda, che poi lo porterà, come dire, alla dissoluzione, almeno per quanto riguarda le sue istituzioni. E allora Philip Malela in questo brano Ti Bacamo, e noi siamo a Johannesburg. Maleba, Ti Bacamo, 17:24, sempre sintonizzate e sintonizzati sugli 87.9 di Radio Onda Rossa. Rimaniamo in Sudafrica, incontriamo il grande musicista Hugh Masekela, grande trombettista. E allora lui si è incontrato con con Stewart Levin e ha fondato un'etichetta discografica che si chiamava Chaisa, dove ha prodotto non solo lui stesso, ma ha prodotto anche Baranta, Mayatta Fainbullah, Lettambulo, insomma molti artisti della scena musicale sudafricana, ma anche poi che provenivano da altre parti dell'Africa. Un'esperienza che è durata dal 1965 al 1975. Allora il brano che ci ascoltiamo è Afrobeat Blues, lui e Hugh Masekela insieme a Orlando Julius Ekemode. Afrobeat Blues, o già con Hugh Masekela, che era stato da poco tempo in Ghana, in Nigeria, dove aveva incontrato Fela Ransome Kuti, e infatti questo brano, insomma, è influenzato da questa vena Afrobeat. E si sono fatte le 17:30 all'ascolto di Radio Onda Rossa, questa è Radio Africa, vi ricordo anche il contatto telefonico 06 49 17 50. Ce ne rimaniamo in Sudafrica, loro si chiamano le Mautela Queens e sono un gruppo vocale femminile sudafricano nato nel 1964 e il loro cantante era Malatini, che era conosciuto anche come il Leone di Soweto per la sua voce roca. E allora ce le ascoltiamo le Mautela Queens in questo Vosani Ma Ipi. Wozani maipi siyeso wetu, wozani maipi ekekene, wozani maipi siyeso wetu, wozani maipi abolala. Uamangale, uyangale, uyasifika sikona. Uamangale, uyangale, uyasifika sikona, sitale kikini. Uamangale, uyangale, uyasifika sikona. Wozani maipi ekekene, wozani maipi siyeso wetu, wozani maipi abulala. Uamangale, uyangale, uyasifika sikona. Uamangale, uyangale, uyasifika sikona, sitale kikini. Uamangale, uyangale, uyasifika sikona. Loro, le Mautela Queens, e ancora in Sudafrica, sempre Hugh Masekela, che insieme a un gruppo che si chiama Johannesburg Street Band registrò a Los Angeles gran parte dei suoi brani intorno al 1968, un gruppo che poi suonò, formato anche con Wayne Anderson e Wilton Felder dei Jazz Crusaders, altro gruppo insomma piuttosto noto. E allora i Johannesburg Street Band in questo brano Awo Mafana. Radio Onda Rossa, e allora ci abbiamo un collegamento con la piazza, pronto, mi senti? Sì, ciao, ciao a tutti. Ciao. A tutti. Allora, sei a Piazza della Piramide, manifestazione per il diritto alla casa, c'è stato un, diciamo, un divieto della manifestazione da parte della questura, che poi è un divieto che va di pari passo con la stretta repressiva che è stata anche inaugurata dall'articolo 5 del decreto casa di Lupi. Insomma, dimmi un po' com'è la situazione, raccontaci un po'. Sì, proprio così, diciamo, la piramide era stata occupata due giorni fa dagli attivisti del Movimento per la Casa per sollevare alcune questioni, tra cui quelle che dicevi tu, delle repressive, ma anche gli ultimi sgomberi, insomma, della mancanza di soluzioni in generale. Dopo due giorni gli attivisti delle varie reti, insomma, sono riusciti a convocare questo corteo, che però non è stato autorizzato dalla questura. Infatti siamo tutti qua sotto alla piramide davanti alla ferrovia per Roma Ostia, che ancora non è stato bloccato dai bici, ma a quanto hanno detto in un intervento poco fa si riuscirà a partire in direzione della fiera di Roma, anche se non era proprio il percorso che volevano fare. Sono riusciti a contrattare questo con la questura. Guarda, in questo momento la situazione è estremamente tranquilla, qualche centinaio di persone si sono radunate, hanno risposto all'appello qua sotto, e ci sono famiglie, persone di tutte le origini, di tutte le età, occupanti, attivisti, tutti insomma interessati a quello che sta succedendo, a lottare anche per il Movimento per la Casa. La situazione è direttamente tranquilla, passano un caldo terribile e tutti si sono posizionati all'ombra. Penso che tra qualche minuto il corteo, insomma, si avvierà in direzione opposta al centro per questa volta. Quindi per i compagni che lo volessero, insomma, raggiungere, il corteo ancora non è partito e siamo fermi alla fermata della piramide. Esattamente, sì, proprio nella piazza. Bene, allora guarda, casomai ci risentiamo fra una mezz'oretta, così se ci sono, insomma, aggiornamenti, anche altre voci, ci ricolleghiamo con la piazza. Sicuramente. Grazie, ciao. Ciao, a dopo. E quindi abbiamo ascoltato questa breve corrispondenza a proposito della mobilitazione per il diritto alla casa, sì, un corteo che è stato vietato dalla questura, ma si sta contrattando, probabilmente si riuscirà, insomma, a fare un corteo. I compagni sono ancora fermi alla fermata della piramide, quindi se appunto li volete raggiungere fate ancora in tempo, poi fra circa una mezz'oretta faremo un ulteriore aggiornamento della piazza. E allora sono le 17:40, sempre all'ascolto di Radio Onda Rossa, questa è Radio Africa. E eravamo in Sudafrica, abbiamo ascoltato questo brano di un gruppo che si chiama i Johannesburg Street Band, gruppo dove c'era anche Hugh Masekela, quello che viene definito un genere marabi o bakanga. La bakanga è una sorta di minestra che, insomma, si usa mangiare a Soweto, e che bakanga perché dentro questa minestra musicale c'è un po' di tutto. E rimaniamo ancora in Sudafrica con una stella della musica sudafricana, le si chiama Yvonne Shaka Shaka, in questo Kwedini. Yeah. Shaka Shaka in questo Quedini è un'altra grande voce femminile della musica sudafricana, Brenda Fassie. Brenda Fassie è stata una vera e propria stella, la regina del pop africano o anche addirittura la Madonna delle Township. Lei aveva cominciato a suonare molto presto, poi attraverso la sua vita personale è passata attraverso delle prove molto, diciamo così, molto forti, perse la sua compagna, dichiarò la sua omosessualità e anche per questo fu molto contrastata dai media, e nel 1989 incise un album di grande successo commerciale, perché lei fu l'inventrice del bubblegum, che è un genere musicale piuttosto popolare, anche diciamo così un po' semplice, ma che ebbe molto successo. E in questo disco del 1989 lei introdusse dei testi di esplicita condanna del regime dell'apartheid. Alcuni dei suoi brani, come per esempio Black President, furono censurati. Questo genere musicale, il bubblegum pop, era un genere pop basato su melodie particolarmente semplici e accattivanti, ma lei è stata probabilmente l'inventrice di quel genere musicale che si chiama Kwaito, un genere musicale che poi ebbe grandissimo successo fra i giovani sudafricani. Il suo percorso di vita fu un percorso segnato da gravi problemi personali, un divorzio, l'abuso di cocaina, la morte della sua compagna, la sua lotta per la liberazione degli omosessuali, per la possibilità di esprimere insomma la loro i loro sentimenti liberamente, e poi la morte nel 2004, anche perché era stata segnata fisicamente dal suo percorso. E allora lei, Brenda Fassie, in questo Jiva. Chaiba, Chaiba, Chaiba, Chaiba, Chaiba, Chaiba, Chaiba, Chaiba, Give me my fuck up, pussy, cause I'm a lover. Just give treba ma min da se kona Se tu mura je si gafana se konem besa Nem sanju ti besi sin kogu ti tu pambaca Era pambaca nam sanj Al so tu su sega pambaca nam sanj E lui è un altro esponente musicale del sudafricano, si chiama Bongi Kosi Dlamini, detto anche Zola, ed è un musicista nato proprio a Soweto. E il brano che ci stiamo ascoltando è Bam Bam Bata. E lui è Jimmy B, Making Bones. Africa! Africa. Away. No need for that, I got your back with funky tracks to make you dance all day and all night. Plus everything is everything, the mood is right. No need to fight, we got to keep it tight, check it. I guess it's my turn to grab a mic and wreck it. Niggas know my shit's original, that's why they rush to buy my record. I double platinum in just about a month, thanks to Urban Slush, but for getting me higher than the feeling gone. So who's the bomb? It's you, Jimmy B. The niggas wanna bite, but them can't see you, G. You got the bad skills, you always keep it real. Forget it, find the holy field, nigga, you're the deal. Without screw, plus I'm super cool, I'm breaking all the rules. And when I'm on the mic, I make the ladies wanna droop. Come on, everybody, it's time to shake your body. Forget about your problems, enjoy this funky party. I get wrecked. Like Buster Rhyme, I keep you all in check. Disrespect, I break your neck. Nigga with the blow of death, so hold your breath. You never met an African with mad skills. Vibing up a 2-inch reel, 24 tracks, the deal. EMI Records is my label, and now I'm able to make tracks that you can play on your turntable. Right, you every black man, every white man, together we are one under the sun. So come, let's have a ton of fun. Lui è Jimmy B, viene dalla Sierra Leone ma suona in Sudafrica, ha prodotto con il grande West Consi e questo brano ci sono dei sampler del Malatini, delle Mautella Queens e Malatini. E allora sono le 17.59, si sta avviando la conclusione Radio Africa per questo sabato 21 giugno, ma voi naturalmente rimanete sintonizzate e sintonizzati sugli 87.9 della modulazione di frequenza di Radio Onda Rossa, perché c'è Soul Peanuts e il suo jazz, e poi fra non molto faremo anche una corrispondenza dalla piazza, vi ricordo la manifestazione per il diritto alla casa, concentramento a piazza della Piramide davanti alla stazione della metropolitana. E allora Radio Africa finisce con un altro brano, lui è Didier Awadi insieme agli Swata Camp e il brano si chiama Amandla ed è in ricordo di Nelson Mandela. Today we are entering a new era for our country, a South Africa we have struggled for, in which all our people, be they African, colored, Indian or white, regard themselves as citizens of one nation is at hand. Amanda. Amanda. Amanda. All right. Mandela. Mandela. All right. Regardless of the color, simuye. Praying together, khulubodi marituse. Sonke, asibambane ngezandla. We all Africans, akuputa umputhe. I speak for every South African child, woman and man. For every township, city, rural land. For every whisper, dream in a distant land. Always been said, divided we fall, together we stand. Together as one, thy will be done. The Lord gave the world to all and not to one. None above the other is the way to live. We take and give, born free, we shall achieve. Wonke umuntu ahlangane, sebenzele phambili. Plus a place of unity, that's all we need in this world. It shouldn't be about race. This cut up with some of the squad came down our wide in my Africa say fair. La force de Mandela, la vérité, ce qu'il faut pardonner, évoluer. On n'oublie pas, mais on doit développer l'identité nouvelle qui prend en compte toutes les entités. Awadi, Swatakam, Mandela, c'est l'unité. They speak of a constitutional, democratic political order in which, regardless of color, gender, religion, political opinion, or sexual orientation, the law will provide for the equal protection of all of our citizens. Amanda. Mandela. Amanda. Doing all right. Mandela. Let's fly. Mandela. Doing all right. Amanda. Na na na. Amanda. Doing all right. Mandela. Mandela. Mandela. Doing all right. Now the speeches were made, the songs will be played. Africa celebrate, join the team making change. I can see Africa in this day and age, shouting out Amandla, cause we all the same page. As far as song, we got different facial features. Mara, song as yazo, what Madiba's speech means, the Africa thought. We at the top of the list.